La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un buon weekend cinematografico da Franco D'Assisi. Questa è la nostra ora, l'ora per parlare di tutte le novità cinematografiche della settimana. Una settimana piuttosto ricca per quanto riguarda il numero di uscite. 7 nuovi film arrivano nelle sale italiane, uno, Vento di Primavera, con un giorno di anticipo per incrociare la giornata internazionale della memoria, gli altri come sempre tutti il venerdì. È anche una settimana che è stata contrassegnata dal l'attribuzione delle nomination agli Oscar, quindi una settimana importante per il cinema americano, perché comincia a fare i conti un po' con questo premio che sta per arrivare. Il dominatore di queste nomination non è stato Inception, che pure ne ha portate a casa 8, forse il film dell'anno, personalmente così penso, ma è stato un altro film molto atteso, Il discorso del re, The King's Speech, che esce proprio in questo fine settimana nelle sale italiane. Da questo cominceremo fra poco l'analisi delle novità in uscita, prima però i nostri titoli di testa. Dopo il pieno di nomination agli Oscar, ben 12, arriva in Italia Il discorso del re, film sulla figura del re inglese Giorgio VI e della sua battaglia per sconfiggere la balbuzie. Un suo storico discorso diede all'Inghilterra il coraggio di resistere agli attacchi nazisti. La divertente storia di un uomo che attraversa tutti gli Stati Uniti per arrivare dalla moglie partoriente. È la trama di Parto col folle, commedia hollywoodiana con Robert Downey Jr. Il regista francese Michel Gondry torna sul grande schermo con The Green Hornet. Il film racconta di un ragazzo che decide di diventare un supereroe, ma che non lo sarebbe mai senza l'appoggio del suo aiutante. Il cinema francese onora la giornata della memoria con l'uscita del film Vento di Primavera, un affresco sulla Shoah vista dai bambini della Parigi occupata. Diventa film in carne e ossa Yattaman, tratto dalla famosa serie animata degli anni Ottanta, ora nelle sale italiane. Dirige Takashi Miike. I have received. For Miss Majesty, the king, la voce straordinaria di un eccezionale Colin Firth nei panni di re Giorgio VI alle prese con il suo dilemma, il suo difetto, il suo problema più grande, quello della balbuzie. È un film veramente particolare, Il discorso del re, The King's Speech. Duca di York, secondo genito di re Giorgio V, Bertie, questo era il nome, è afflitto sin dall'infanzia da una grave forma di balbuzie, che ovviamente era un problema in famiglia, era un problema una volta arrivato al trono anche nei confronti del popolo inglese. Siccome sono anni difficili, sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, dei continui attacchi nazisti, il re prova a superare questo handicap con sedute con un logopedista di origine australiana che lo porterà ad una padronanza tale e bastante sufficiente del suo discorso da pronunciare il suo discorso più bello, appunto, il The King's Speech del titolo, che ispirerà la sua nazione, tutti gli inglesi, a resistere contro la Germania nazista. Questo è un po' in breve la trama, diciamo, il racconto, la falsariga di questo film, che ovviamente offre, come potete immaginare, al suo attore protagonista Colin Firth una delle prestazioni, delle performance che ogni attore sogna, perché è chiaramente alle prese con questo tipo di problematiche, l'attore può davvero essere attore. E noi siamo in collegamento con la nostra Boris Sollazzo. Ciao Boris. Salve Franco, salve a tutti gli ascoltatori. E allora mi sembra che come dire, è una prova ultra superata, cioè anche Colin Firth, che già in A Single Man ci aveva fatto vedere di potersi tenere addosso un film per 100-120 minuti, anche questa volta davvero si supera. Sì, sì, il film è sorprendente e bellissimo, direi che così è anche Colin Firth, che a mio parere è un straordinario attore. Non molto spesso ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità, probabilmente perché imprigionato dal maglione di Bridget Jones in qualche modo, Però poi quando ha provato ad andare su altri generi, da mamma mia a questo discorso di re, passando come dici tu per il single man, ha dimostrato di essere un attore completo e qui dà veramente un'interpretazione meravigliosa, perché non c'è niente di peggio per un'arte che si fonda sull'immagine doversi basare sulla parola e sulla difficoltà di parola. Qui lui lo rende quasi un thriller spalleggiato da un clamoroso Geoffrey Rush e con un Tom Hooper che nel suo film forse meno personale riesce a dare il meglio del meglio, perché davvero è un film che ti tiene attaccato nonostante sia fatto di lunghe sequenze molto parlate o poco parlate a seconda della situazione, rimani attaccato come se fosse un film d'azione. Con molti tentativi di parola, potremmo dire, sarebbe questa la formula giusta. Boris, per Colin Firth, che tra l'altro a cui siamo affezionati perché è un po' italiano, lo sappiamo, cioè nel senso che comunque la sua compagna insomma è italiana, lui ama molto l'Italia, parla l'italiano e tutto questo ce lo fa stare ancora più simpatico, è già fatta per quanto riguarda l'Oscar per il miglior attore? Direi di sì, perché secondo me l'unico altro che potrebbe insomma contendergli la statuetta è Jesse Eisenberg per The Social Network, ma temo sia uscito troppo presto per essere rimasto nel cuore e nelle menti dei giurati, quindi alla fine credo che Colin Firth possa insomma mettere le mani sulla statuetta fin d'ora. E allora andiamo a sentirlo Colin Firth, una breve dichiarazione sul film, sentiamo. Yes, but I knew nothing more than that. Beh, io non sapevo niente di più del fatto che avesse dei problemi di balbuzie. Mi ricordo che mia mamma mi parlava di questo povero uomo con molta simpatia. Tutto quello che avevo sentito di lui era che doveva fare un discorso alla radio e che balbettava. Forse questo è un problema comune a un sacco di persone. Insomma, avete sentito Colin Firth proprio raccontare come si è avvicinato al film e soprattutto a questo personaggio che effettivamente, soprattutto fuori dai confini d'Inghilterra, non è un personaggio e una storia molto nota, ma il film ha veramente dei momenti anche di grande commozione proprio e per l'empatia umana che si crea col personaggio e anche per il suo ruolo dentro la storia con la S maiuscola. Boris Sollazzo, rimani con noi, abbiamo parlato di The King's Speech, probabilmente il film della settimana, almeno per quanto riguarda la qualità e l'importanza, e anche perché 12 nomination all'Oscar sono davvero una cifra quasi record. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, sempre alle prese con le novità cinematografiche di questo fine settimana. Cinema americano che arriva in massa, abbiamo detto di The King's Speech, da cui ci si aspetta ovviamente molto, arriva anche una commedia con un attore che è diventato uno degli attori feticcio, insomma, del pubblico internazionale e anche del pubblico italiano, come Robert Downey Jr. Stiamo parlando di Parto col Folle, gioco di parole in questo parto, tra la partenza e il partorire, è un film, una commedia anche abbastanza robusta in termini diciamo così di anche verbali, insomma non è sicuramente un film per educande, come si potrebbe dire parafrasando una nota frase legata al mondo del calcio, è invece un film di comicità pesante insomma, ma anche venato da una certa malinconia. Allora Parto col Folle, visto per noi da Chiara Pizzimenti. Mio padre diceva sempre: se una giornata comincia male, poi la strada è tutta in salita. No, si dice tutta in discesa. Ma la gente punta in alto, non vuole stare in basso, quindi è tutta in salita. È più facile andare in discesa. Quel detto di tuo padre non esiste. Se la prima persona che incontri una mattina ti dice il contrario di quello che il buon senso e la tradizione suggeriscono, attento, potrebbe davvero andare peggio. Peter Eichmann, Robert Downey Jr., è un architetto ormai con un piede sull'aereo che lo riporterà a casa, da Atlanta a Los Angeles, dove sta per nascere il suo primo figlio. Si imbatte però nell'aspirante attore Ethan Tremblay, Zach Galifianakis, che gli fa perdere ogni volo possibile. Lei è in una lista no fly. Nostro figlio nasce questo venerdì, come pensi di tornare? Ehi, ti va di venire con noi? Crisi scongiurata, sono in macchina. Saluta. Fammici parlare, c'è un parrucchiere dalle tue parti. Ho una permanente da sballo che ha bisogno di manutenzione. Ecco come sono messo. Dunque si va in macchina attraverso gli Stati Uniti, non senza difficoltà e incontri inusuali. Si fa tappa al Grand Canyon per dare l'ultimo saluto al padre di Ethan e si diventa amici, nonostante le diversità. Non mi ricordo il nome di chi l'ha costruito. No, errato, è il Grand Canyon, non il ponte di Brooklyn. Lo so che non è il ponte di Brooklyn, quello l'hanno costruito i padri Pellegrini. Questo caffè fa schifo, sa di lettiera per gatti. Io l'ho trovato squisito. Ho usato il barattolo che avete portato. Oh, cavolo, c'erano le ceneri di suo padre. God is great, beer is good, and people are crazy. Parto col folle, in originale Due Date, termine che indica la data presunta del parto, è una commedia on the road, figlia del successo di Una notte da leoni. Il regista Todd Phillips è lo stesso, ma soprattutto nipote di Un biglietto in due di John Hughes con Steve Martin e John Candy. Di padre e nonno mancano però originalità e freschezza. Il modello road movie è infatti un po' troppo abusato. Si ride però per battute surreali e politicamente scorrette, soprattutto grazie a Galifianakis, il comico di origine greca che era il riccioluto cognato fuori di testa di Una notte da leoni. Ed è proprio il ricordo di lui e di quella pellicola a portare gli spettatori in sala. Molto bello, cioè alla fine era aspettato, anche perché il regista aveva fatto anche l'altro film che avevamo visto e ci è piaciuto, siamo andati. Cioè, è stata una conferma, sì, è stato bellissimo. Sì, è stato molto bello. Sì. Perché? Fatto ridere. Ma divertente. Ma perché fa ridere? E allora, questo era Parto col folle, raccontato da Chiara Pizzimenti. Noi siamo arrivati alla prima finestra aperta sul DVD game / Blu-ray game, dipende dalle settimane. Oggi è DVD game, ma capirete perché la settimana prossima, quando sveleremo tutto. Tra l'altro voglio subito ringraziarvi davvero tanto, perché la settimana scorsa, con il film che scopriremo, che sveleremo fra poco, abbiamo fatto il record storico di partecipazioni al nostro Blu-ray game / DVD game qui alla Rosa Purpurea. In 11 anni di trasmissione mai così tanta gente aveva scritto per partecipare. Questo poi lo spiegheremo, cioè ce lo spiega anche proprio il film che avevamo scelto, ed è una bella notizia, un bel riscontro. Ma insomma, state lì con un po' di curiosità, che fra poco sveliamo tutto. Dicevamo, prima traccia del film misterioso da indovinare questa settimana per provare a vincere il DVD proprio di questo film. Sentiamo. Che gli hai preso? Jesse è parecchio incazzato perché Chris l'ha mollato. Non sapevo neanche che stessero insieme. Già. La Rosa Purpurea @radio24.it. Per il momento c'è una situazione, qualcuno si è mollato con qualcun altro e c'è un nome, Chris. Per il resto dovete un po' attaccarvi a quello che conoscete, ma più tardi ci saranno altre due possibilità per provare a vincere. E andiamo avanti con un'altra novità, un supereroe, anzi, come sentirete fra poco, come lo definisce il suo regista stesso, un super antieroe. The Green Hornet arriva nelle sale cinematografiche italiane. Il cinema americano si è occupato e si sta occupando ancora tantissimo dei suoi mitici supereroi, ma questo The Green Hornet non è sicuramente diciamo uno dei più famosi, i più conosciuti, almeno al di qua dell'oceano. Forse proprio per questo il progetto è stato affidato a un regista che io amo molto, tra l'altro, come Michel Gondry, L'arte del sogno, Se mi lasci ti cancello, insomma uno che, come dire, col materiale e con la materia ci sa lavorare molto. Chissà com'è stato il suo impatto con il cinema americano e con i supereroi addirittura. Noi siamo di nuovo in collegamento con Boris Sollazzo, che non ci ha lasciato. Allora Boris, l'accoppiata Gondry-supereroi come funziona? È difficile, perché come dicevi tu è un film particolare, siamo stati travolti da uno tsunami di supereroi negli ultimi anni, però questo è proprio difficile metterlo, incasellarlo in questa categoria, perché è tutt'altra cosa. Si prende un supereroe degli anni 30, il protagonista Seth Rogen e anche lo sceneggiatore Gondry, lo conosciamo bene. Io direi che c'è anche molto di Behind the Rewind, film minore di Gondry, ma molto gustoso e molto cinefilo. E in questo senso è un bel esperimento pieno di buone intenzioni, che però forse nell'ambito di comunque un format come quello dei supereroi cinematografici moderni fa fatica, perché fa fatica forse anche perché ci siamo abituati a qualcosa di diverso per quanto riguarda i supereroi. La storia è gustosa perché insomma è un supereroe per caso, un super antieroe come l'ha definito Seth Rogen. Però a volte fa fatica, insomma, direi che sospendo il giudizio, nel senso che ci sono tante buone cose, ma il film nel complesso mi sembra non riuscito. Senti, Boris, una parola su Michel Gondry, che fra poco sentiremo in una breve dichiarazione. E comunque, continua anche in questo film a confermarsi, non so se l'unico, ma sicuramente uno dei registi, tra l'altro giovani perché poco più che quarantenne, capace di fondere una visione analogica del film. Behind the Rewind in questo senso lo è stato su tutti, c'era proprio il, come dire, il trionfo dell'amore anche per l'oggetto analogico come il VHS rispetto al DVD digitale e freddo. Ecco, è un regista che sa trasportare in un'epoca di cinema digitalizzato anche mentalmente, anche nella concezione, un concetto caldo di analogia. Mi sembra che questo è il riuscito o non riuscito, è sicuramente il supereroe più analogico che c'è. Sì, direi, io l'ho incontrato per L'Arte del Sogno, l'ho intervistato e lui mi disse in un'intervista fatta proprio per La Rosa Purpurea: io penso in analogico e però cioè, lavoro in analogico, lavoro con appunto la pellicola, però spesso mi capita di pensare in digitale, in stop motion. In lui c'è proprio questo cortocircuito molto buffo della capacità di usare sia l'arte semplice dell'animazione, e nell'Arte del Sogno si vede, cioè c'è addirittura un'animazione che non è animata, e però c'è il gusto del vecchio e del nuovo, riesce a metterle tutte insieme. Qui poteva forse fare il suo capolavoro, forse era tutto troppo complicato, cioè c'erano troppi pensieri, c'era la carta, c'era l'analogico, c'era in parte anche il digitale, quindi probabilmente questo ha reso troppo oneroso il suo lavoro. Però sono d'accordo con te che lui abbia, forse sia l'unico autore, uno straordinario autore, che ha questo cortocircuito in sé. Forse c'erano anche troppi soldi, perché comunque mi sembra uno più suo agio quando ha da inventarsi un po' la vita. Beh, insomma, comunque lo troveremo, Gondry, insomma, è un nome di cui si parlerà sicuramente a lungo. Allora andiamo subito a sentire qualche dichiarazione, cominciando da una delle protagoniste, perché non abbiamo detto del cast, Seth Rogen da una parte, e dall'altra però c'è anche, insieme a Christoph Waltz per esempio, c'è anche Cameron Diaz. E quindi Cameron Diaz racconta un po' com'è stato lavorare in questo set internazionale un po' contaminato con Gondry. Sentiamo. È stato difficile, soprattutto perché non riuscivamo a capirci l'uno con l'altro, visto che ognuno parlava una lingua diversa: canadese, americano, taiwanese e francese. E quando Michelle parla in inglese, nessuno riesce a capirlo. E avete capito, quindi, e Gondry, infatti lo sentirete adesso parlare in questo inglese con grande accento francese, spiega appunto del Green Hornet, di quale tipo di supereroe si tratti. È stato davvero affascinante per me avere un supereroe che è in realtà un super antieroe. D'altra parte l'azione descrive molto bene il tutto. Nel complesso c'è una combinazione di vari caratteri umani che, urtando tra loro, danno impulso a un'esplosione. Il rapporto con il regista, partendo da qualcosa invece di già disegnato e scritto, come appunto un fumetto, è l'oggetto della dichiarazione di Seth Rogen. È straordinario. È veramente gratificante trovare qualcuno che ha la volontà di sviluppare qualcosa che hai scritto. Ed è veramente bello vedere come il regista riesce a trasformare in una magnifica idea visuale una scena che in realtà sarebbe molto semplice. Amo questa cosa, è fantastico. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Ci sono ancora un paio di novità di cui parlare. La prima è Vento di Primavera, il film un episodio importante della Shoah in Francia, che viene portato sugli schermi da Rose Bosch con Jean Reno protagonista. Sentiamo. Da quando portano la stella gialla, ci siamo accorti che gli ebrei sono dappertutto. E lavorano. Secondo Hitler, anche l'affondamento del Titanic è colpa nostra. Perché? Iceberg. Un altro ebreo. Ma come fate a ridere? Gli indesiderabili ci chiamano. Di che altro avete bisogno? La Francia è la salvezza degli ebrei. Bisognerà togliere a migliaia di ebrei la nazionalità francese. Erano queste, fra l'ironico e il preoccupato, le reazioni di una famiglia ebrea nella Parigi occupata dai nazisti di fronte alle quotidiane privazioni di diritti cui il regime di Vichy li sottoponeva. Ironiche e incredule da una parte, fiduciose che la messa alla berlina di 25.000 ebrei nella sola Parigi sarebbe stata una missione impossibile e che i nazisti e i loro tirapiedi francesi mai sarebbero arrivati a tanto. Arrabbiate e preoccupate però dall'altra, da chi, come i più giovani, come avete sentito, vedeva cambiare in peggio di giorno in giorno la città in cui viveva, prima alle stelle gialle spalle sul petto, dopo i cancelli chiusi delle scuole, e poi dove saremmo arrivati? Chissà che cos'era quella puzza al bistrò. Era zuppa di cavolo, che è piena di carne di maiale. Perché i tedeschi mangiano animali impuri? I bambini, con la forza di volare alto sopra le miserie dei grandi che li contraddistingue, interpretavano tutto come un grande gioco di ruolo. È su loro che si posa l'occhio di Rose Bosch in questo vento di primavera, la persecuzione di 25.000 ebrei parigini vista con gli occhi dei bambini. Ma un giorno i nazisti vararono la soluzione finale. Hitler voleva dalla sola Parigi 20.000 ebrei da deportare, 20.000 vittime sacrificali. I rastrellamenti scattarono immediati, con il benestare del maresciallo Pétain, che, piccolo aneddoto, fece solo spostare la data dal 14 luglio al 16. Non avevano badato i nazisti alla festa nazionale. Così un mattino i militari del regime di Vichy penetrarono nelle case degli ebrei di Montmartre e li portarono via tutti, grandi e bambini. Destinazione temporanea il Vélodrome d'Hiver, un velodromo coperto dove vennero stipati 8.000 dei 12.000 arrestati. Sì, perché numericamente l'operazione fu un fallimento. Solo la metà degli ebrei voluti da Hitler fu arrestata. Gli altri scapparono o si nascosero nelle case dei parigini antifascisti, che salvarono loro la vita. Il velodrome di Ver somigliava a un girone dantesco. Persone assiepate sulle gradinate, gente che urinava sui muri, altri che gridavano e si lamentavano, chi mangiava poco e chi beveva meno, fino all'eroico intervento dei pompieri parigini che sfidarono l'inettitudine dei traditori di Pétain per dissetare i loro fratelli francesi. Dovrebbero. Svolgete le lance. Avanti, eseguite. Venite, veloci, veloci. E in un sottoscala solo un medico e 8 infermiere a dar sollievo a tutti. Il dottor Scheinbaum, che è il volto di Jean Reno, e Annette, l'infermiera interpretata da Melanie Laurent, la Shosanna del tarantiniano Bastardi senza gloria. Saranno loro a seguire i deportati, soprattutto i bambini, nel lungo viaggio verso un campo di prigionia della periferia francese, anticamera del lager di Auschwitz. La cosa incredibile dell'olocausto raccontato al cinema è che ogni volta si pensa di avere visto tutto e ogni volta ci si ritrova a commuoversi di fronte a una storia nuova e di proporzioni inaudite. Come questa del Vélodrome d'Hiver, un episodio che i libri di storia francesi liquidano in 3 righe e che fuori dai confini transalpini è praticamente sconosciuto. Di tutti gli ebrei deportati, solo 25 adulti, 25, si salvarono dalle camere a gas. Un'immensa strage a cui si è appassionata la regista Rose Bosch, moglie del produttore Ilan Goldman, la cui famiglia riuscì a scappare dal rastrellamento del velodrome. Non è stato facile raccogliere i fondi per realizzare il film, il cui sforzo produttivo si vede tutto, grandi ambientazioni, scenografie, costumi. 10 anni di lavoro ci sono voluti alla Bosch per studiare tutto di quell'episodio. Conosco anche il colore delle mutande di Hitler, ha dichiarato oggi scherzando la regista. Ma la veridicità del racconto accresce il realismo di un film che, pur all'interno di una regia lineare senza voli particolari, tocca e commuove dal primo all'ultimo minuto, come fosse il primo film sulla Shoah, e invece non è il primo e non sarà l'ultimo su quella macchia sul cuore che l'umanità si porterà dentro per sempre e che abbiamo il dovere di non dimenticare. E questo era Vento di Primavera nelle sale cinematografiche italiane. Noi siamo alla seconda traccia del DVD Game di oggi. Sto bene, grazie. Stiamo organizzando un gruppo di supporto a scuola. Lo sai dov'è il mio ufficio, vero Nancy? Sì. Noi andiamo via. Certo. Stammi bene. Anche tu, Gwen. Ciao, Quentin. Ciao. Abbiamo aggiunto qualche nome, un altro indizio: la scuola, la rosa purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta. E allora, questo era il nostro secondo indizio per quanto riguarda la giornata di oggi, ma adesso abbiamo un'altra novità, ed è una novità che vogliamo affrontare con Boris perché è un film che dice molto a tutta una generazione che oggi, insomma, viaggia fra i 30 e i 40, possiamo dire, perché stiamo parlando di Yattaman, che arriva in film, in live action, con una firma prestigiosa, tra l'altro, come quella di Takashi Miike, quindi uno dei registi sicuramente più innovativi, particolari di tutto il fronte orientale della sua generazione. Però il film, come molti di voi sapranno, insomma, era un grande cartone animato, un grande anime dell'inizio degli anni Ottanta, che vedeva protagonista questa sorta di squadra, insomma, di personaggi, Yattaman 1, Yattaman 2, eccetera, e che è stato un cartone di grande successo, pur senza magari arrivare alle cifre anche proprio di popolarità di qualcosa di precedente come Mazinga o come Gigrobo d'acciaio, però ha avuto nella sua generazione una grande penetrazione. È un film che esce con una distribuzione non capillare, quindi insomma andatevelo un po' a cercare, ci sono una quindicina di copie in giro per l'Italia, nelle città più importanti il film dovrebbe essere presente, magari in una sola sala, però insomma vale la pena, se siete stati appassionati di questo cartoon, di andarlo un po' a scovare, perché il film è veramente molto molto riuscito, un po' folle ma molto riuscito. Entriamo nel clima con una parte del trailer. Sono il dottor Doc Robey, il re dei ladri. So dove si trova la Docrostone. A quanto pare, quando i frammenti si avvicinano, alterano il corso del tempo. Se assembleranno i quattro pezzi, sarà il caos totale. Può sparire l'intero pianeta. Mostratevi, Triodrombo! Yatta! Yatta! Yatta! Yatta! E allora avete sentito un po' il clima, è proprio quello del cartone animato, insomma, e questo ci fa molto piacere, perché si recuperano delle atmosfere. Qualcuno, un amico mi ha così confessato che vedeva Yattaman perché nella sigla c'era a un certo punto una bellissima ragazza che rimaneva nuda, e questo era uno dei sogni erotici possibili, insomma, all'inizio degli anni Ottanta. È un personaggio, sono anzi personaggi, come avete sentito, gli Yattaman e appunto il Triodorombo, davvero dirompenti. Boris, Takashi Miike dietro un'operazione del genere fa una certa impressione. Ma altro che, io sono commosso intanto, perché poi appunto io ero un grande fan di Yattaman, e devo dire che molti di noi sono cresciuti anche nel senso del tuo amico, perché c'erano la Mu, c'era Crimi, insomma ce n'erano tanti che usavano questo piccolo stratagemma, anche perché insomma erano sempre un pochino più spinti cartoni animati giapponesi rispetto a tutti gli altri. E qui succede una cosa strana, parlavamo di cortocircuiti prima, e qui c'è un altro cortocircuito, perché Takeshi Miike, abituato al low budget, abituato ad avere una visione originalissima del cinema, può piacere o non piacere, ma di sicuro come Takeshi Miike non ne troverete, si mette completamente al servizio della storia, cioè si sforza di rendere perfettamente simile a quello che era il film. E ci riesce con la stessa follia, con lo stesso mix di infanzia e anche però tematiche un po' più adulti, cioè Miss Dronio ha delle derive fetish, non possiamo chiamarle altrimenti, anche da come è vestita, con i suoi aiutanti goffi, Toyaki, Tonsula e Boyaki. Ed è questo era il fascino del cartone animato, che se no aveva anche una trama rigida, un plot rigido. Qui l'unica cosa che magari gli appassionati, quelli proprio i fan più feroci, potrebbero trovare come difetto è che tutta una serie si riduce a un film solo, e quindi bisogna fare delle crasi fortissime sulla trama. Però devo dire, io mi sono divertito come un matto, e bravi alle officine Ubu, perché spesso noi contestiamo i doppiaggi, o almeno a me capita di farlo. Qui il lavoro sul doppiaggio è straordinario, anche sulle canzoni. Takeshi Miike è un autore che si è prestato a Yattaman facendo veramente una cosa divertente, gustosa, dove potete portare i bambini, e voi 35enni magari con i vostri piccoli bambini vi divertirete ricordando, certo, l'infanzia. Assolutamente, assolutamente. Allora Yattaman, andate a spulciare, perché nelle grandi città potete trovarlo. Grazie a Boris Sollazzo, che ci ha fatto un po' da filo conduttore in questa ricca settimana cinematografica. Grazie a te Franco, un abbraccio speciale. I was born here in Los Angeles, and I was given up for adoption on the day of my birth. My mother was 14 when she had me. Avete sentito quello che c'è da sapere di questo film di cui vogliamo parlare adesso? Finite le novità al cinema in sala in Italia, in questo fine settimana noi siamo alla nostra rubrica I Dispersi, con Alberto Brumana che ci racconta di settimana in settimana un po' i film da recuperare perché non sono stati distribuiti in Italia, pur avendo avuto un forte passato magari in qualche festival oppure cast di tutta eccezione. Questo è Mother and Child, ma facciamocelo raccontare meglio da Alberto Brumana. Ciao Alberto. Ciao Franco, oggi parliamo di un film completamente al femminile, si tratta di Mother and Child. Al femminile tranne il regista, che è Rodrigo Garcia, conosciuto anche per essere il figlio di Gabriel Garcia Marquez, che è specializzato in film tutti al femminile, perché ha già girato Le cose che so di lei e Nove vite da donna, ad esempio, due film molto apprezzati nei festival internazionali. Questo film, Mother and Child, racconta la storia di tre donne che sono interpretate rispettivamente da Annette Bening, Naomi Watts e Kerry Washington. In particolare Annette Bening ha partorito una figlia quando aveva 14 anni e l'ha fatta adottare. Dopo 37 anni si mette alla sua ricerca. Naomi Watts invece è un avvocato, sa di essere stata adottata e ha una relazione e poi un figlio inaspettato con il proprio capo. A un certo punto decide di abbandonare lui e il suo lavoro per farsi una nuova vita. Invece Kerry Washington è una donna che non può avere figli e si trova davanti alle grosse difficoltà per l'adozione di un bambino. Insomma, sono tre storie molto forti che man mano saranno sempre più collegate fino a un finale molto, molto drammatico. Anche il cast maschile non è da sottovalutare, infatti ci sono Samuel L. Jackson, Jimmy Smith e David Morse. Il film è stato presentato a Toronto nel 2009, poi a Sundance nel 2010 ed è stato accolto da molti applausi, sicuramente da un successo meritato e che l'ha portato poi ad uscire in quasi tutti gli stati europei. In Spagna in particolare ha avuto moltissimo successo, è uscito nell'estate del 2010 ed è rimasto in classifica per più di due mesi. In Italia invece risulta assolutamente inedito, ma è reperibile un DVD internazionale che si può trovare in rete a meno di 12 euro e contiene scene inedite e il commento del regista. Insomma, anche questa settimana è un bel disperso da ritrovare. La rosa purpurea. Eccoci qua ancora insieme, la parte finale del nostro programma come sempre dedicata al cinema da vedere, rivedere e registrare in casa e lo facciamo cominciando a spulciare nei palinsesti della prossima settimana per quello che riguarda le TV in chiaro sul digitale terrestre, quelle visibili insomma a tutti, per vedere quali sono i film da valorizzare. Lo facciamo con gli amici del settimanale Film TV che sono in collegamento con noi, precisamente con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio, cominciamo con le segnalazioni. Ciao Franco, bentornati con le segnalazioni di Film TV. Questa settimana segnaliamo La Promessa, mercoledì alle 21.10 su Iris, un film del 2001, terza regia per Sean Penn, che dimostra la sua statura di regista con questo film profondamente anti-hollywoodiano, nonostante il cast sontuoso, tratto da uno splendido romanzo di Duremat. È un'opera decisamente contro i generi, un giallo che preferisce concentrarsi al posto che sull'indagine sul paesaggio mentale del protagonista e alla logica della ricostruzione degli eventi, preferisce dipingere il dolore di un Jack Nicholson in un'interpretazione molto dolorosa. E allora Giuliano, ricordiamo La Promessa, mercoledì 2 febbraio su Iris alle 21.10. Cambiamo decisamente registro con un film davvero raffinato dei fratelli Coen. Giovedì su Iris alle 23.20, L'uomo che non c'era. I fratelli Coen giocano ancora una volta col cinema classico in questo meraviglioso film che struttura un omaggio al noir e alle sue atmosfere, un genere che rispecchia perfettamente la visione del mondo dei due registi, dove i personaggi non possono uscire dalla propria condizione e se lo fanno vengono inevitabilmente puniti. Il film, girato in uno splendido bianco e nero, ha la presenza incredibile dell'interpretazione di Billy Bob Thornton. Assolutamente da ricordare, L'uomo che non c'era, The Man Who Wasn't There, giovedì 3 febbraio 23.20 Iris. Grazie a Giulio San Giorgio di Film TV. E allora siamo alla terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi, sentiamo. Ero con Chris. Che cosa le hai fatto? Io non le ho fatto niente, è quello che sto cercando di dirti. Credimi, Nancy, sta succedendo qualcosa. Dimmi prima che cosa è successo a Chris. Qualcuno l'ha uccisa mentre dormiva. Eh beh, qui siamo di fronte all'indizio degli indizi. Se non avete ancora indovinato, provateci. Ricordatevi sempre di inserire anche il vostro indirizzo. Questo facilita e accelera le operazioni di spedizione del DVD, in caso siate il più bravo del sabato e della domenica, per aver indovinato per primo questo film. La Rosa Purpura @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Sette giorni fa, e torniamo a quello che abbiamo detto in apertura, record di partecipazione al nostro Blu-ray game con questo film. Gli anni passavano, sembrava che volassero. Strano, ma è così quando non fai niente. Ma due cose non riuscivo a togliermi dalla mente. La prima era Dominique, quando prima di morire mi disse: sono inciampato. E l'altra eri tu. Io non so se è la musica di Morricone che vi ha aiutato, se è che questo film è dentro il DNA del pubblico italiano. Non c'è niente da fare. C'era una volta in America, straordinario capolavoro di Sergio Leone, inizio anni 80, ora sono passati tanti anni, eppure, e il nostro pubblico è un pubblico di tutte le età, ovviamente qui è la Rosa Purpurea, ma ci sono anche tanti 30-40enni che però sono assolutamente sul pezzo. Questo è un film che sta dentro l'anima degli italiani. Si spiega così questo incredibile record di partecipazioni. I più bravi e preparati sono stati Cristina Bortoli di Torri di Quartesolo, spero si pronunci così, provincia di Vicenza, e Massimo Arioli di Roma, che riceveranno il Blu-ray di questo film edito dalla Warner, ed è un grande omaggio, insomma, a Sergio Leone. Claudio Pofi in collegamento con noi, però noi entriamo nella veste critica di recensori di DVD. Com'è questo lavoro, questo Blu-ray di C'era una volta in America? Ciao Franco, sì, un saluto agli amici in ascolto. Beh, l'edizione Blu-ray di Warner permette sicuramente per la prima volta di recuperare nella sua totalità l'incredibile impianto scenografico di questo capolavoro. Il formato dell'immagine è prossimo, anche se non identico all'originale. L'offerta audio è il problema, diciamo, più grosso, perché è la stessa del precedente DVD, ovvero una traccia Dolby Digital multicanale, ma attenzione, contenente il ridoppiaggio realizzato per Long Video, quindi non la versione col cartello originale di doppiatori per la versione cinematografica. Per gli extra segnalo un estratto di un documentario sul maestro Leone e il commento del giornalista e storico del cinema Richard Schickel, che non è sottotitolato. E beh, questo del ridoppiaggio effettivamente è un po' una pecca, dobbiamo dire, perché insomma ci piace poi ascoltare questo tipo di film con le voci che ce li hanno fatti amare la prima volta al cinema. Insomma, questo era C'era una volta in America. Noi andiamo invece alle recensioni di questa settimana, avvicinandoci temporalmente ai giorni nostri con Somewhere di Sofia Coppola. Sentiamo. Però capisci, sono 5 giorni che ne parliamo e non posso ripeterti per 5 giorni la stessa cosa. Ok, ti spiego la motivazione per l'ennesima volta. Il mio problema è che non mi sento di poter dare qualcosa a questo personaggio e quindi penso sia meglio non fare il film. Ok, è il tuo mestiere, cerca di tutelarmi. Va bene. Aspetto che mi richiami più tardi. Grazie. Ciao. Il famoso attore di Hollywood, Johnny Marco, vive tra lussi ed eccessi presso il leggendario hotel Chateau Marmont. La bolla fatta di noia, torpore fisico e mentale è ben presto destinata a scoppiargli in faccia con l'arrivo della figlia undicenne, giovane che accompagnerà il padre verso una serie di riflessioni che lo indurranno a riconsiderare il senso della vita. Narrazione rarefatta e minimalista nell'opera che ha vinto il Leone d'Oro all'ultima mostra del cinema di Venezia, in cui Sofia Coppola mescola elementi autobiografici e lavora sulle contraddizioni esistenziali. Blu-ray di Medusa che rispetta pienamente l'originale cinematografia, compresa l'evidente grana della pellicola, c'è questa doppia traccia di TS ad alta risoluzione, veramente ottima sia in italiano che in inglese. Come extra segnalo un interessante dietro le quinte della lavorazione di 8 minuti con audio in presa diretta. E invece George Clooney è venuto in Italia non solo a vivere ma anche a girare un film l'anno scorso, si intitolava The American, ambientazione l'Abruzzo. Il film non è proprio particolarmente riuscito, però lui è sempre George Clooney, insomma, ascoltiamo la clip. Gittata? 150-175 metri. Tempo? 5 secondi, 7 al massimo. Obiettivi? 1. Velocità di fuoco? Elevata. Capacità caricatore? Grande, preferibilmente una 5,56. L'arma deve essere piuttosto leggera e compatta. Quanto compatta? Più compatta possibile. Esperto di armi, Jack modifica qualsiasi arma a seconda delle richieste. È un artigiano che costruisce proiettili e silenziatori, scovato da dei sicari alla meglio, e trova rifugio in un paesino dell'Abruzzo accettando un nuovo incarico: adattare un fucile e preparare proiettili per un misterioso sicario. Braccato dal suo passato, si riscoprirà desideroso di una nuova vita grazie anche alla conoscenza di una prostituta di cui si innamora, ma ritirarsi dagli affari si rivelerà un'impresa disperata. Il regista Anton Corbijn realizza questo noir con un certo retrogusto western. Da Universal c'è il DVD, ma soprattutto il Blu-ray di qualità strepitosa. Abbiamo appunto una doppia traccia in VHS e soprattutto quella in inglese ad alta risoluzione, molto interessante. Tra gli extra c'è questo curioso e approfondito making of e soprattutto il commento audio del regista per tutto il film. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. A presto, ciao. E abbiamo chiuso, abbiamo finito con Claudio Poffi con le segnalazioni in DVD, la nostra puntata della Rosa Purpura, appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24, come sempre con le novità in uscita nei cinema italiani. Un saluto da Franco D'Assisti.